deve essere nostalgic. E mi ha spiegato così il concetto di nostalgia felice. E io ho capito che per anni avevo pensato che Natsukashi fosse la traduzione del nostro concetto di nostalgia. E mi ero completamente sbagliata. Per anni avevo pensato al passato con una nostalgia triste. Ma dovevo ricominciare tutto e scoprire questo modo diverso di ricordare il passato con gioia. Ed ero una debuttante nel sentimento di nostalgia felice. È talmente più intelligente. Uno pensa al passato non per disperarsi, ma per essere felice che siano avvenute quelle cose. La nostalgia heureuse, ça consiste a pensare au bon souvenir du passé, non pas pour s'en désespérer, mais pour se féliciter qu'ils aient existé. Questo romanzo è un po' un, come dire, un reportage intimo, insomma, del tuo rapporto col Giappone, del tuo ritorno in Giappone. Spesso nei tuoi libri ci sono delle situazioni strane, grottesche, dei personaggi estremi. Perché ti piace così tanto mettere nei romanzi queste personalità borderline? O comunque succedono delle cose insolite? Parce que la réalité est comme ça, parce que ces personnages borderline existent, parce que tout ça c'est la réalité. Perché la realtà è così. Le persone borderline esistono. La realtà non è normale, non ci sono persone normali. Guardi il mio editore italiano che è qui. Non è normale. Valentina, l'interprete, non è normale. Tutto il mondo è così e io sono come gli altri. Tout le monde est borderline, je suis comme tout le monde. Voilà. Grazie ad Amelino Tombo, ora in libreria con La nostalgia felice, pubblicato da Voland, con la traduzione, come sempre, per i suoi libri di Monica Capuani. L'avete sentita Amelino Tombo, che ci ha parlato in modo, insomma, emozionato ed emozionante del suo ritorno in Giappone, dove ha vissuto una parte della sua infanzia. Venendo invece agli scrittori italiani, c'è uno scrittore che, nonostante abbia vissuto per anni in Germania e ormai vive da tantissimo tempo in Trentino Alto Adige, continua ad ambientare i suoi romanzi nella terra natia, la Calabria. In particolar modo lui è nato a Carfizzi, che è un paese Arbresh della Calabria. Sto parlando di Carmine Abate. Carmine Abate aveva vinto qualche anno fa il premio Campiello con La collina del vento, anche in quel caso ambientato in Calabria, nella zona di Ciro Marina, quindi del Crotonese. L'ultimo libro che ha scritto si intitola Il bacio del pane, pubblicato da Mondadori nella collana Le libellule. Le libellule sono questi libretti un po' piccoli, diciamo, dei racconti lunghi, romanzi brevi, insomma, chiamatelo un po' come volete, ma sempre di una certa intensità. E anche in questo caso il romanzo è ambientato in Calabria. Si tratta di un romanzo dell'anno scorso, insomma è uscito all'inizio del 2013, ma si sa, i libri non invecchiano mai, quindi mi fa piacere parlarne. Carmine Abate dunque continua ad ambientare i suoi romanzi in Calabria, perché secondo me forse lo scrittore, nel momento in cui scrive, fa emergere la parte più intima, più emotiva di sé. E allora sentiamo dallo stesso Carmine Abate quanto è forte, se è così forte, questo legame con la sua terra d'origine. Sì, è evidente, se uno lascia in un luogo, le sue radici più profonde si trovano in quel luogo e io non faccio altro che di libro in libro cercare di scandagliarle sempre più in profondità, senza però mai dimenticarmi i nuovi luoghi in cui ho avuto l'avventura di vivere, tant'è che ho scritto un libro che si chiama Vivere per addizione. A me piace vivere per addizione, quindi vivere tra più luoghi, prendere il meglio di questi luoghi, e forse riesco a raccontare in profondità il mio luogo d'origine proprio perché vivo fuori, e a me interessa molto questo rapporto tra il nord e il sud, scrivere dei libri che in qualche modo facciano anche da ponte tra questi due mondi che sembrano così diversi, ma poi sotto sotto non lo sono. Tu dici anche che scrivi per addizione, cioè in qualche modo stratifichi tutte le tue esperienze di vita, come dicevamo anche prima, fra il nord e il sud. In questa mescolanza è un po', come dire, la tua firma narrativa. Sì, io cerco appunto di sfruttare anche le tante lingue, a partire dall'Arbresh, che è la mia madrelingua, il germanese, appunto l'italiano, che è la lingua in cui scrivo, e a partire proprio dalla collina del vento, e anche in quest'ultimo, il bacio del pane, anche l'utilizzo di parole o dialettismi che partono dal calabrese. Queste parole sono importantissime non solo per il ritmo che poi danno alla pagina, ma anche perché sono proprio queste parole che mi portano a galla le storie, l'ho detto spessissimo, queste parole sono una sorta di esche vive che mi portano a galla le storie. Qui più che mai la lingua anche dei personaggi è fondamentale. È una storia di oggi, quindi la storia di un gruppo di adolescenti che in un'estate caldissima vanno a fare una gita in un posto che esiste realmente vicino al mio paese, che si chiama il Giglietto, dove c'è una cascata per raggiungere la quale bisogna risalire una fiumara senza acqua, ovviamente in estate, in uno degli 8 ruderi che si trovano appunto lungo la fiumara, si imbattono in un uomo misterioso. E il romanzo non è altro che poi, per accumulo, capitolo dopo capitolo, la storia di quest'uomo e della vita di questi adolescenti. Due gruppi, diciamo, che sembra che non abbiano nulla in comune e probabilmente non, all'inizio non ce l'hanno, ma poi sanno ascoltarsi e quindi i giovani sanno ascoltare la storia che gli racconta quest'uomo misterioso e l'uomo misterioso comincia a fidarsi anche di questi ragazzi. Quindi c'è anche proprio, come dire, un ponte fra due generazioni e anche poi si scoprirà nel libro fra due territori che sono diventati un po' diversi, perché l'uomo ha avuto una parte della sua vita nel nord Italia. Quindi ancora una volta un tuo libro che mette sempre un ponte fra generazioni o fra territori. Sì, io credo che sia fondamentale il dialogo tra le generazioni. Però perché ci sia questo dialogo, soprattutto perché i giovani possano riuscire a capire la verità degli adulti, occorre che questi adulti non siano didascalici, cioè non dicano, non so, in questo libro si parla molto di legalità, bisogna seguire la legalità, semplicemente, perché è una cosa, un grande valore. Ecco, quest'uomo dimostra come bisogna fare, dimostra con fatti concreti, con la sua vita, addirittura rischiando la vita, quanto è importante la legalità. E quindi i ragazzi, in questa estate è bellissima, tra l'altro c'è anche una storia d'amore in questo libro, perché lo voglio ricordare, tutte le storie sono storie d'amore. Qui c'è un amore adolescenziale, ma insomma c'è l'innamoramento che a me interessa molto raccontare. Però questi ragazzi, nell'incanto, nel pieno dell'incanto della giovinezza, si accorgono che questo incanto non è nulla senza il coraggio, senza l'impegno che ci vuole per diventare poi degli adulti consapevoli e onesti. Aggiungo anche questo, adulti consapevoli e onesti. Possiamo un po' definirlo un romanzo di formazione collettivo? Mi piace molto questa definizione. In realtà è un romanzo di formazione collettivo, anche individuale, di questi giovani, ma poi piano piano si trasforma in un romanzo civile, perché qui si prende posizione e si racconta, in questo caso per esempio l''ndrangheta, non dal punto di vista, diciamo, dell''ndrangheta raccontandone le gesta, rischiando a volte di farne l'epopea, ma dal punto di vista di chi la combatte, di chi crede nella legalità, di chi combatte l'illegalità diffusa, che è tra i problemi centrali della nostra terra, non solo della Calabria, direi di tutta Italia. E questo era Carmine Abate che ci parlava del suo ultimo libro, Il bacio del pane, pubblicato da Mondadori, ma che ci parlava soprattutto del suo legame con la terra d'origine, ossia la Calabria. E c'è un altro scrittore che si divide così fra due paesi, il paese d'origine che è il Marocco, dove è nato e cresciuto, insomma ha passato la sua infanzia, e poi la Francia, in particolar modo Parigi, perché lì si è trasferito nel 1971. Sto parlando dello scrittore franco-marocchino Tahar Benjelloun. Ne stiamo parlando perché a lui è dedicata la 20ª edizione di Dedica. Scusate il gioco di parole, Dedica è una manifestazione che si tiene a Pordenone ed è concentrata su un solo autore, cioè si vuole promuovere tutta la sua opera, non un solo libro. Quest'anno è stato appunto dedicato a Tar Benjelloun e si terrà a Pordenone fino a sabato 22 marzo, era iniziata l'8 marzo scorso. L'ultimo romanzo di Tar Benjelloun è uscito proprio in questa settimana, si intitola L'ablazione, pubblicato da Bompiani. È un libro che fra gli addetti ai lavori sta già facendo, insomma, parlare parecchio. Racconta la storia di un uomo di 60 anni, un uomo molto vitale, insomma un professionista e un matematico di rilievo internazionale, che a causa di un tumore alla prostata deve appunto sottoporsi a un intervento chirurgico. Sa che però c'è il rischio a quel punto di non poter avere più rapporti sessuali, insomma di fatto diventare impotente. E questo gli farà fare tutta una serie di riflessioni sulla sua vita intima, ma anche sulla sua vita pubblica, insomma sulle relazioni sociali che ha. Per conoscere gli appuntamenti di questo festival dedicato quest'anno in esclusiva a Tar Benjelloun potete andare su dedicafestival.it. A me non resta che ringraziare Fabio Cantadori che ci ha accompagnato nella regia di questa puntata del Cacciatore di Libri. Come sempre ci trovate su Twitter come Ale Teddina, su Facebook e poi l'archivio delle puntate su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.